terra, di quel che tracce se comprio ti danno. A noi oggi è dato che dal nostro coraggio di purgar queste rive da nostri abominati. Amici, parta questo giove infame, in pan reclamo vanità. Le spose di figli. E cinti da perini, e gli amici con le spose di figli, e fattoriamo la sera. La morte del padre vendicar. Pensare. Come il suo delitto. Delitto! L'amor della sua patria. Legno di morte, legno. Costriamci degli al fin. Del sangue desortiamo, l'ombra del silenzio, i tre cantori armiamo, di lance e spada armiamo. L'ombra del silenzio, i tre cantori armiamo, di lance e spada armiamo. Domani, fia che sforda, il giorno di vendetta, ne reggerete voi? No. Sia fermo.